La versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori di Radio 24, in questo lunedì dell'Angelo, dopo Pasqua, ben ritrovati questo 21 aprile che è ancora festivo, e quindi noi dedichiamo questa giornata a una riflessione un po' fuori dal clangore rutilante della solita politica o delle notizie economiche e dei mercati. E siccome naturalmente poi questi giorni sono anche giorni per riflettere un secondo su quanto potremmo fare di più dal punto di vista non solo umano dell'empatia, ma anche di quello che bisogna immaginare che non facciamo e non viene fatto, in come funziona il nostro consorzio civile, la nostra società nei confronti di chi ha dei problemi, di chi sta peggio e che però ha un pieno, incontestabile diritto alla dignità come tutti quanti, quelli che hanno meno problemi, e che continua ad avere alcune libertà fondamentali invece violate, non garantite, esattamente perché non ci si pensa abbastanza e non si mettono in essere tutto ciò che serve perché la loro libertà e la loro dignità sia tutelata, almeno come quella di qualunque persona che sia in salute. Mi sto riferendo in particolare a un problema di cui ci occuperemo oggi, e ho scelto di farlo perché mi sta particolarmente a cuore. Ogni tanto capita che io faccia delle puntate dedicate ai malati, a chi ha problemi di salute. Oggi ci occupiamo di una questione che riguarda i disabili. I disabili continuano ad avere alcune libertà fondamentali, quella di libera circolazione e spostamento, ma quella poi del lavoro innanzitutto, che al di là delle norme generali previste per garantirle loro, nella realtà dei fatti continua a essere violata sistematicamente. E allora mi sono detto, in questo lunedì post pasquale cerchiamo di capire meglio concretamente che cosa si potrebbe fare, cosa un po' funziona e soprattutto cosa si potrebbe funzionare meglio con quali cambiamenti. Allora, abbiamo ospite oggi innanzitutto Rodolfo Della Mora. Rodolfo Della Mora è un architetto che è esperto appunto di progettazione accessibile, cioè una delle questioni fondamentali per impedire che la libera circolazione, l'accesso agli edifici, l'accesso ai luoghi del lavoro, lo spostamento, l'accesso ai mezzi di trasporto sia impedito a chi ha delle disabilità, e a propria volta naturalmente direttamente colpito dal problema, non è solo un tecnico che se ne occupa professionalmente, e però ha compiuto un percorso di specializzazione esattamente su questa figura particolare, il disability manager, col quale forse dovremmo fare amicizia e conoscenza, perché dovrebbe diventare uno dei punti di fondo delle nostre amministrazioni pubbliche, e invece non lo è nel nostro paese. E a lui quindi abbiamo chiesto, questo lunedì di Pasqua, di spiegarci un po' il suo percorso e che cosa davvero si può chiedere perché la vita dei disabili migliori, la loro libertà e dignità sia perfettamente tutelata. Buon pomeriggio e grazie di essere con noi, Rodolfo Della Mora. Salve, buongiorno a tutti. Allora, lei innanzitutto, domanda diretta, ma che tipo di disabilità ha? Io ho una disabilità alla deambulazione, io mi muovo in carrozzina e cerco di svolgere normalmente quelle che sono le attività di vita quotidiana, guido la macchina, lavoro normalmente, però con tutte le mie difficoltà, però superandole attraverso tutta una serie di ausili, ma anche di condizioni che mi sono creato in maniera autonoma. In maniera autonoma. Quando ha deciso di professionalmente indirizzare a questa specializzazione per occuparsi anche degli altri, il proprio percorso professionale, come l'ha fatto e dove l'ha fatto? Beh, guardi, io mi occupo di progettazione da ragazzo, perché io sono laureato in architettura, ma ho avuto una formazione tecnica avendo svolto un corso di studi all'Istituto Tecnico Industriale con specializzazione edilizia. La prima casa accessibile che ho progettato avevo 19 anni, adesso ne ho 50 a settembre, quindi è da una vita che mi occupo di questo. Il mio problema l'ho sempre avuto in maniera silente, un po' alla volta, quindi ho convissuto con la mia disabilità, però sempre con un'attenzione diretta verso gli altri, perché volevo mettere a disposizione degli altri la mia esperienza, ma poi anche la competenza. E la competenza l'ho assunta appunto nel tempo, svolgendo i corsi naturali di formazione per un architetto, quindi l'università a Venezia, e successivamente ho fatto due corsi di perfezionamento all'Università Cattolica, uno in Disability Manager e uno nelle tecnologie assistive presso, sempre a Milano, presso il Don Gnocchi di Milano, dove questo master, questo corso di perfezionamento si occupava di nuove tecnologie, di sistemi e ausili per rendere le persone con disabilità in maniera autonoma oppure dare un grado di autonomia. Allora, iniziamo a spiegare, perché al di là del termine così inglese, un po' tecnico, ma in realtà questo Disability Manager, quindi il primo dei corsi di perfezionamento che ha fatto alla Cattolica, che cos'è in concreto? Allora, è un corso che è nato nel 2010 su una proposta fatta all'epoca dall'allora Ministro del Lavoro Sacconi, dove aveva redatto il libro bianco dell'accessibilità, e per la prima volta in Italia nel 2009 veniva citato questa figura del disability manager, che però io lo trovavo limitativo, nel senso che il disability manager citato in questo libro bianco veniva collocato esclusivamente all'interno delle pubbliche amministrazioni, in particolare nei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, quindi una figura che si occupava, secondo questa indicazione, esclusivamente di accessibilità, quindi come riferimento professionale potevano essere gli architetti, gli ingegneri, i geometri. Quindi, a mio modo di vedere, limitativo su questo, perché la disabilità non è che si valuti esclusivamente sull'accessibilità, anche sull'accessibilità. E quindi un po' alla volta è nato un corso che, su indicazione di questo libro bianco, in collaborazione con l'Università Cattolica di Milano, nella direzione del professor Adriano Pessina, che è direttore del Centro di Bioetica dell'Università Cattolica di Milano, ha istituito per la prima volta questo corso di perfezionamento nel 2010. Dal 2010 ho fatto questo corso, poi fra l'altro sono diventato docente negli anni successivi, tuttora anche quest'anno ho insegnato, e abbiamo aperto però questo corso non esclusivamente a figure tecniche, ma anche a figure che operano all'interno delle strutture sanitarie e anche nell'ambito dell'inserimento lavorativo e nell'ambito anche dell'economia. Cominciamo un secondo però da quello che lei giustamente non esaurisce il problema, cioè le figure tecniche che dovrebbero essere generalmente diffuse nelle pubbliche amministrazioni, che poi si incaricano di sovrintendere o di controllare che non vi siano ostacoli all'accessibilità in tutta una serie di progetti, dalle rampe per l'accesso ai mezzi di trasporto pubblico, agli ostacoli per l'ingresso negli edifici e così via. Ma in realtà questa figura di recente introduzione, appunto, non c'è ancora nelle amministrazioni pubbliche. No, non è normata. Allora, è stata citata nel libro bianco, però per la prima volta, attraverso recentemente l'approvazione del decreto del Presidente della Repubblica sul piano d'azione biennale, no? Dove praticamente sulle politiche, sul programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, è stato approvato nel dicembre del 2013. Queste linee guida, per la prima volta è stata inserita la figura del Disability Manager Case Manager. E quindi, diciamo, bisognerebbe che tutti noi ci occupassimo di promuovere il fatto che poi venga concretamente introdotta nell'amministrazione questa specifica. Noi come SIDIMA, io sono anche presidente di SIDIMA, che è la società italiana Disability Manager, che racchiude oltre 120 Disability Manager italiani, stiamo attuando a livello politico attraverso vari canali la necessità, e abbiamo trovato anche disponibilità da parte di certe persone, a portare avanti le istanze nostre di questa nostra necessità di far inserire all'interno delle pubbliche amministrazioni e anche nelle singole aziende private questa nuova competenza. Infatti, anche nelle singole aziende private. Ma le faccio una domanda, in questo caso da puro incompetente, all'architetto, non al disability manager. Sì. Nelle norme generali per la realizzazione di opere nuove o per la trasformazione e il riattamento del patrimonio immobiliare esistente per ogni tipo di finalità, strumentale d'impresa o per l'utilizzo di uffici pubblici, eccetera, ci sono delle norme generali vigenti per i quali in realtà i progetti devono essere correlati a non avere ostacoli all'accessibilità, oppure no? Sì, sì. Guarda, vi dico subito, l'Italia dal punto di vista normativo, sembra strano, ma è uno degli stati più avanzati dal punto di vista normativo. Sì. Cioè, il problema è un altro, il problema è l'applicazione della norma e i controlli. Perché tre quarti degli interventi edilizi vengono, tra virgolette, autocertificati dal professionista con l'autodichiarazione, sì, e quindi scatta poi il silenzio assenso. Lei sa meglio di me come funzionano molto spesso queste cose. E quindi, e nella stragrande parte dei casi, quindi a quel punto non ci si mette a norma con quello che le regole prevedono? No, nel senso che fanno le opere a norma, tra virgolette, ma molto spesso le norme vengono lette male, interpretate male. Oppure addirittura non applicate, no? Perché certo, appunto esiste molto spesso anche l'autodichiarazione e l'autocertificazione. Allora, qui ci fermiamo un secondo perché abbiamo i 60 secondi rituali per l'informazione stradale, oggi è delicato perché inizia il rientro ovviamente nelle grandi città, ci sentiamo tra un minuto preciso, intanto strade. La versione di Oscar. Eccoci qui, tornati in questo lunedì dell'Angelo, 21 aprile, dagli studi Radio 24 di Milano, e in questa pasquetta abbiamo deciso di farvi riflettere un secondo su un tema che è molto importante, cioè il pieno rispetto della libertà, dei diritti dei disabili e ciò che si oppone ancora nella realtà concreta del nostro paese al fatto che questo pieno rispetto che viene affermato nelle leggi eccetera eccetera in realtà poi ancora è violato sistematicamente. È con noi Rodolfo Dalla Mora, architetto, esperto di progettazione accessibile, poi ha fatto due corsi di perfezionamento alla Cattolica di Milano per ulteriormente perfezionare il fatto che professionalmente si dedica al tema non solo dell'accessibilità. Ne abbiamo parlato, le norme esistono, però poi gli interventi immobiliari per risolvere il problema dell'accessibilità sono autocertificati e spesso quindi non ci si mette davvero in piena regola. Nelle amministrazioni pubbliche ci sono queste linee guida introdotte, approvate al dicembre dell'anno scorso, però siamo ancora lontani dal fatto che davvero poi disability manager ci siano in ogni livello in cui è necessario che ci sia nella pubblica amministrazione. Architetto Dalla Mora, al di là, dicevamo, di questi problemi dell'accessibilità, a me pare che ci sia un grande problema ancora per quello che riguarda l'organizzazione del lavoro, dei luoghi di lavoro, delle forme in cui deve essere possibile consentito il lavoro anche a chi ha delle disabilità, che consenta di lavorare, ma bisogna prevederlo, di farlo in maniera coerente alla sua disabilità. Mi sbaglio? Qual è la sua impressione? La legge, l'impianto della legge 68, che è quella che regola il collocamento obbligatorio, ha messo in evidenza all'epoca il concetto di capacità residua, no? Della persona, quindi sfruttarla proprio in senso ampio. Quindi il problema qual è? La norma c'è, il problema è come dire, avere gli interlocutori su cui intervenire, su cui agire, ma soprattutto le aziende nel controllarle, no? Con sanzioni pesanti, nella mancanza di attuazione della legge, ma anche come dire, avere degli uffici preposti per come dire, dare una valutazione sulle capacità residue della persona e su questo interagire. Le politiche del lavoro in Italia le fanno i centri per l'impiego, che sono a gestione della provincia, sì. Da strano, adesso le province spariranno. No, è così, perché la competenza regionale, ma i centri sono provinciali, sì. Ecco, però i famosi uffici di collocamento sono stati trasformati in centri per l'impiego. Il problema è un altro, che il personale che prima operava nei centri per l'impiego sono gli stessi che adesso operano nei centri per l'impiego di adesso, sì. Quindi non hanno avuto aggiornamenti, non hanno avuto... Quindi non hanno alcuna formazione specifica per questo. Esatto. Tra l'altro ricordiamo che nel progetto di legge delega annunciato dal Presidente del Consiglio per fare la riforma semplificata delle leggi del lavoro in un codice semplificato del lavoro, il contratto poi triennale di inserimento a tutele crescenti e così via, c'è anche annunciata creazione di questa Agenzia Nazionale del Lavoro che dovrebbe prendere tutte le competenze degli uffici provinciali e anche i dipendenti, quindi anche in quel caso caso noi non avremmo una riformazione. Senta, io le faccio una domanda, Archetto Dalla Mora, un po' fuori dai denti. Io ho passato numerose esperienze in diverse aziende, non solo editoriali, perché visto che lavoro da 32 anni, anzi 33, spesso ho constatato che nelle aziende, inutile fare giri di parole, la quota obbligatoria di assunti portatori di disabilità, quella prevista dalla legge che lei anche ricordava, viene vista come dalle imprese, certo, un obbligo a cui ottemperare, ma dopodiché nella mia esperienza è stato rarissimo trovare aziende che non lo considerassero un obbligo un po' a bocca storta, perché poi gli incarichi che venivano affidati ai portatori di disabilità erano, questa è la mia esperienza, spero che non sia la regola, ma la mia è stata questa, totalmente insoddisfacente, demotivanti, routinari, eccetera, eccetera. Io sono sempre stato convinto che molte volte non ci sia alcun rispetto verso il talento vero, la capacità di svolgere il lavoro in proporzione, poi certo, alla disabilità di quel portatore. Questa è la mia esperienza. Nella sua opinione è una regola o è l'eccezione? No, lei ha ragione. La ragione perché innanzitutto le sanzioni sono, cioè, sono basse, cioè, se un'azienda non applica, non rispetta la norma, ha delle sanzioni misere dal punto di vista economico, molto basse. E poi questo appunto manca la cultura della formazione in azienda, nel senso che far emergere le capacità residue delle persone con disabilità, che sono, vi dico per esperienza mia personale, perché tra l'altro dopo magari gli spiego un po' il lavoro che faccio, perché io sono disability manager anche all'interno di una struttura ospedaliera, e quindi mi occupo di tutto l'aspetto riabilitativo. E dov'è? Che ospedale è? L'ospedale di Motta di Livenza, un centro riabilitativo di alta specializzazione, dove io lì opero come disability manager e mi occupo e sono inserito all'interno della filiera riabilitativa. Quindi nel periodo che la persona è ricoverata subisce tutto l'iter riabilitativo e io mi interfaccio con le varie figure professionali, quindi dal logopedista al terapista occupazionale, al fisioterapista e allo psicologo, in quel periodo di ricovero io mi interfaccio con queste figure e cerco di creare le condizioni di accessibilità per l'abitazione e per la persona o per i familiari che seguono la persona. E nel contempo interagire nel territorio per cercare di creare gli spazi e le reti per la persona una volta che viene dimessa. Quindi il lavoro che io faccio è un lavoro di carattere tecnico, ma anche, chiamiamolo, politico. Certo. Ecco. E quindi molto spesso mi capitano ragazzi che hanno una ottima potenzialità in termini di capacità residua, pensiamo alle persone con disabilità che sono bravissime a lavorare al computer, che sono persone che hanno una capacità e una voglia di fare che è una cosa straordinaria, che purtroppo non sono valorizzate su questo, perché manca proprio una cultura nella valutazione, ma soprattutto una cultura anche nella formazione da parte degli enti e degli organi competenti, ma anche all'interno dell'azienda. L'impressione è che molto spesso, con diverse intensità territoriali a seconda della tradizione, dell'indice di concentrazione del terzo settore non profit e volontariato, sia soprattutto appunto il terzo settore a prendere in carico molti dei problemi che le amministrazioni pubbliche, il ritardo delle imprese, delle reti imprese, delle associazioni di impresa lasciano in un angolo sui problemi della disabilità, è così? Sì, si può dire che buona parte dell'attività di volontariato e di assistenza nel territorio viene fatta buona parte dal terzo settore. Pensiamo a tutto il sistema di mobilità e di trasporto per le persone con disabilità, cioè ti trovi in situazioni che associazioni attraverso delle attività territoriali svolgono un'attività di servizio, di accompagno della persona con disabilità alle cure, al trasporto, alla scuola, proprio perché c'è una carenza di risorse. Io continuo a ricordare che sul terzo settore noi continuiamo da anni, da che è stato istituito 5 per 1000 terzo settore da Tremonti parecchi anni fa, continuiamo da anni con uno Stato che non consente la programmazione pluriennale dei flussi finanziari alle aziende che ne beneficiano, alle ONSUS che sono iscritte all'albo del terzo settore, perché lo Stato si riserva di anno in anno, a seconda dei suoi flussi di cassa e dei saldi che deve garantire sul suo deficit, di stabilire la cifra. Quindi questa è una delle tante asimmetrie che lo Stato riserva a proprio vantaggio a coloro che in realtà si organizzano, mettono il proprio tempo, mettono il proprio denaro, mettono la propria capacità professionale e organizzativa per risolvere quei problemi che lo Stato non è in grado, non ha le risorse, non ha la sensibilità di affrontare. Però questo lo dico semplicemente per inciso, per ricordarlo noi tutti come cittadini, che il 5 per mille è una sintesi della simmetria in cui lo Stato, che non fa quello che deve, si prende quello che non dovrebbe, anche quando i cittadini scelgono poi nella dichiarazione dei redditi di finanziare ovviamente la società, le associazioni del terzo settore. Senta, la sua vita personale, se posso farle questa domanda, nel fare tutte queste scelte da che era giovane, nel dedicarsi agli altri, ha avuto anche una coefficiente di autorealizzazione per star meglio e vivere meglio la propria disabilità oppure no? Ma guardi, io sono una persona che sono contento di come sono, di quello che ho fatto e quello che continuo a fare. Mi sento una persona realizzata, anche perché provengo da una famiglia di umile, molto umile, e quello che sono riuscito a fare lo devo buona parte ai miei genitori, che mi hanno consentito nel studiare, nel formarmi e di avere anche una certa autonomia nel poter scegliere. Il dare agli altri non vuole avere una valenza spirituale o di altro genere. Il dare agli altri per me significa arricchirmi come persona. Quanta parte nelle diverse fasi della sua vita ha avuto la rabbia? La? Rabbia. Ma guardi, da ragazzo. Poi sa, la rabbia anche qua dipende da caso a caso e da situazione a situazione, dipende anche dal tipo di disabilità che uno ha, perché un conto uno diventa disabile dalla sera alla mattina attraverso un incidente stradale, certo, attraverso un trauma veloce, quindi passa dalla sera alla mattina tra virgolette in una condizione diversa. Altro conto è ovviamente se uno ci nasce, quindi no, io sempre, è da poco che sono in carrozzina, però essere coscienti, ecco, non dirci le bugie, per usare un termine corretto e pulito, è prendere atto della situazione così com'è, ma guarda, diventa bellissimo, cioè, e soprattutto ti adatti di volta in volta alle situazioni. Il saper prevedere, ecco, il saper prevedere cosa si farà domani anticipando diventa importante, no? Io guardi, la ringrazio architetto per quello che ci ha regalato con questa testimonianza, spero che chi ci ha ascoltato in questo lunedì di Pasqua rifletta, possiamo fare tutti noi molto, non solo finanziando il terzo settore, ma ponendoci il problema nel nostro palazzo, nel nostro ufficio, nella nostra impresa se siamo dipendenti, nel come capita, a me è capitato di trattare autonomi con cui lavoriamo come clienti o fornitori non sfruttati bene, non messi bene a lavorare se sono portatori di disabilità. Continuate con Radio 24, grazie all'architetto Rodolfo Dalla Mora, appuntamento con me a domani.